questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. L'indisciplinato Daniele Bellasio. Che il microfono vada anche spento oltre che acceso, sì, è una cosa. Intanto, perché Pietro in regia, allora, ha chiesto: ti accendi il microfono? Tu hai detto sì, però non hai specificato. Il primo che anno te lo di Radio YouTube non ho imparato niente. Il secondo anno ho imparato ad accendere il microfono. Nel terzo vorrei imparare anche a spegnere. Marta, toccherà che mi insegnerai questa cosa qua. Disciplinato, non proprio rapidissimo perché? Nell'apprendere. No, no, nel senso, non tutto. Ognuno ha le sue doti. Il microfono per il momento non è la mia dote. 39esima puntata di nel Radio secondo Club. Anno, sì. Domini. E totale, quindi non mi ricordo. Non te lo dico, ma abbiamo fatto il conto prima io e Cristian Goldo. No, non te lo dico. Non te lo dico, però questo appuntamento della trasmissione di Radio 24, che all'interno del Sabato del Villaggio, il cui hashtag è hashtag ISDV, si chiama RadioTube, quindi l'hashtag è RadioTube, si occupa di video alla radio, trasmessi però sulla rete, e ha due account importanti, quello di @MartaCagnola e quello di @DiBellasio. Molto bene, ci potete trovare sempre. Meno male adesso c'è anche un uomo al microfono perché guarda, tutto il pomeriggio con le donne. Ma no, tutto il pomeriggio non c'era perché ci sono un po' di ascoltatori misogini che mandano un po' di messaggi. Io infatti volevo dire, sono arrabbiata con quelli che mi danno dell'oca. Non scrivete i messaggi. Sono furente. Ma non hanno qualcosa di meglio da fare, tipo andare a Expo Milano 2015 invece di stare qui a scrivere messaggi? Adesso sono arrabbiata e quindi basta. Di attacchi inutili. Sono arrabbiata. Sessisti peraltro. Contro le donne. Allora sai cosa faccio? Ecco, parlo subito della donna della settimana. Donne della settimana. Che ne avevamo già accennato di lei. Lei è lei. Abbiamo già detto. Lei è molto ironica. È un filo di parte Daniele Bellasio. Perché gli piace Tea Falco. No, ho detto che preferisco la Leone. Ti piace di più Miriam Leone. Anche Tea Falco alla fine ti sta simpatico. No, lei ha costruito un personaggio ormai nella rete virale al punto che protagonista di 1992. Sì, da un'idea di Stefano Accorsi, hashtag da un'idea di Stefano Accorsi. E se fosse rimasta un'idea, questo è un altro discorso. Mamma mia, come non gli è piaciuto 1992. Andiamo avanti. Lei si caratterizza per questa capacità di interpretare solo se stessa. Ma poi non è che proprio si capisca benissimo. Cioè, parla guarda che italiano la capiscono un po' molto più di quanti non pensi. Davvero? Sì. Però la prendono molto in giro. Sì. E allora lei cosa ha fatto? Allora lei cosa ha fatto? Si è presa in giro. Si è presa in giro da sola. E questa è Tea Falco che dà una prova di grandissima autoironia. Tieni, Teo. Non è taccio che dato accendino. Tieni il peperoncino, Teo. No, accendino. Peccio. Dai, carami così. Cioè, non ha detto Tarendi così. Eh sì, perché era una delle battute di 1992. Brava Tea Falco, che è riuscita esatto, sulla rete, per evitare di essere presa in giro, prendetevi subito, o quantomeno non prendetevi troppo sul serio. No, infatti traiamo delle regole. Lei è stata riuscita. La terza ora io dico di tutto. Adesso partono gli sms. Ecco, non è solo Oca, ma non sa neanche l'italiano. In diretta, Radio YouTube. Non solo è riuscita a non prendersela per tutto quello che le è stato detto in rete, ma a volgerlo a suo favore. Brava Tea Falco. Altra donna della settimana nel tuo elenco personalissimo. Sì, nel mio elenco personalissimo c'è la signora Toya Graham. Sì, andiamo dall'altra parte dell'oceano. Disordini di Baltimora. Sì. Bruttissima storia. Ragazzi che si danno alle proteste. A un certo punto le telecamere inquadrano una mamma. Sì. Tutti capiscono subito che è una mamma, che le dà di santa ragione a un ragazzo con la felpa col cappuccio e tutti cominciano a dire, i manifestanti stanno manifestando e uno di loro viene randellato dalla mamma che comincia a prenderlo a schiaffi. Lei è stata poi appunto scovata, si chiama Toya Graham e ha spiegato così. I turn around and I look in this crowd and my son is actually coming across the street with this hoodie on and a mask. At that point I just aveva questo hoodie, la felpa col cappuccio, una maschera. Io mi sono guardata attorno, non mi sono neanche accorta che c'erano le telecamere. Io mi sono spaventata perché lei ha spiegato: sono una mamma single, ho sei figli, lui è l'unico figlio maschio, e allora, siccome ho paura che lui faccia una brutta fine, cosa ha fatto? Anche se il ragazzo è grande, l'ha picchiato, cioè l'ha picchiato dalle telecamere, e ovviamente non l'ha picchiato per fargli male, erano gli scappellotti della mamma che vuole... Evocati anche per quello che è successo per esempio a Milano. Sì, e quindi ieri sera la rete ha postato, è tornata a postare l'immagine della mamma di Baltimora, che con un po' di amara ironia tutti hanno detto magari ci vorrebbero delle mamme, cioè, di Baltimora. Quindi da eroe tendenzialmente negativo a eroe... Non lo so, però alla fine mi ha fatto molta tenerezza, perché la mamma che... Federico Taddia, hai salutato, in diretta, si può fare. Si può fare, hai salutato Federico, hai fatto benissimo. È tornato indietro. Salutiamo Federico Taddia che passa. Sì, anche prima abbiamo parlato di lui perché abbiamo avuto ospite Marco Bianchi, col quale Federico fa una trasmissione in televisione. Terza donna della settimana. Terza donna nella personalissima classifica di Marta Cagnola. Sì. Allora cominciamo a parlare di Expo. Poi nel prossimo blocco parleremo tantissimo di Expo. Oh, finalmente. Lei, quella cosuccia lì, è la donna più importante del giorno dell'inaugurazione di Expo. Claudia Gerini, che ha condotto prima di Matteo Renzi. No. Non so. No, è Valentina Bisti del TG1. Moratti. No, Valentina Bisti del TG1. Ah. Tu, sì, tu eri lì, è l'inaugurazione, quindi non lo sai. È una collega, ne parliamo bene. Ma sempre, perché poi parleremo di gaffe di colleghi. Vabbè, che ha fatto? Non lo sai, perché tu eri lì e quindi non l'hai visto il TG1 di ieri. Ero lì in diretta. Allora senti cosa è successo al TG1 di ieri, quella delle 13:30. E adesso siamo qui, questo è il posto dove si è svolta la cerimonia inaugurale di Expo. Entriamo nel cuore di Expo, andiamo all'Albero della Vita, il simbolo di questa esposizione universale, con Valentina Bisti. Sì, lo vedete un elegante intreccio di legno, ma siamo in prova, sì, è iniziato il TG. Ah, ok, sì, un elegante intreccio di legno e acciaio alto 37 metri, sopra una grande chioma, è l'albero della vita che affonda le sue radici nel Lake Arena. Quando inizia il TG? Un lago dal quale si svilupperanno giochi di luci e acqua ispirato al pavimento... Non ho capito. In tanti si sono messi, scusate, c'è stato qualche problema anche con l'audio. In tanti si sono messi in fila. Dai, carina. Quando inizia Radio Tube? Questa è la prova? Siamo in prova, no? Certo. E soprattutto è registrata, no? Certo, ho capito. No, siamo in diretta. Ma quindi lei andava avanti. Ma poverina, che poi io ho capito che lei non aveva il ritorno di cuffia. Lei, sì, poi è complesso in quelle situazioni, certo, lì. Non aveva ben capito che era già in diretta. E secondo me la collega in studio non capiva, perché lei sembrava che stesse partendo, in effetti. Invece stava facendo le prove. Sì, stava facendo le prove in diretta. Su Twitter ne hanno parlato tutti. Poverina. Su Twitter, ma che cattive. Sono tutti cattivi. Allora, si stava preparando, faceva le prove. Se rimanete con noi, e dovete rimanere con noi, dovete, anche se mi odiate come Tea Falco, e tutto questo, vi risponderò come Giuseppe Cruciani: ti voglio bene, o addirittura ti amo. Anch'io. Rimanete con noi perché parleremo di gaffe. Sì. Io farò anche coming out sulle mie gaffe, se volete. Paperissima, sembrano puntati paperissima. No, perché poi parleremo con un giornalista molto molto molto amato, quindi io abbraccio la collega del TG1 che poi è stata molto simpatica anche lei, perché può capitare a tutti. Tra poco parleremo di Expo, ma sono le 17:15 esattamente. Traffico, in questo... traffico. Come lo chiami traffico tu? Traffico del villaggio globale. Eccolo qua. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta YouTube. E allora rieccoci insieme per quando parlare di Expo. Adesso tutte le adesso volte ormai vuoi fare il... Basta, farò sempre così, però acceso, vedi? Hai acceso? Ma infatti ad accendere a imparare a spegnere, che non importa. Siamo un Ti po' seri. Siamo inizialmente un po' seri. Aperta la stagione di Expo. Allora tu non c'eri? No, tu c'eri? Ufficialmente. Tu c'eri? È partita la Bisti nel frattempo. Sì che... Eccola qua, siamo in diretta. La zanzara, siamo diventati importanti come la zanzara ci fanno Ci fanno gli scherzi, perché Pietro è bravo. È bravissimo. Non abbiamo capito. Non ha capito. Allora, bene, tu eri lì ieri. Dichiaro ufficialmente, aperta la stagione di Expo 2015, ha detto. Io non ci sono ancora stata, Daniele Matteo. Un altro che ormai sono 3 giorni che si è trasferito lì fisso, sì, praticamente. Non mi sono neanche cambiato. Sei arrivato proprio, sì, proprio da lì, proprio da lì. Expo. Sì. Com'è? Anche a te lo chiedo, sei no, soddisfatto? No, tu sai che io sono di parte perché appunto collaboro. Allora, esatto, tranne togliendo il padiglione con cui collabori. Sì, punto. Un padiglione, quello lì, di una persona importante che ieri, esatto, ha parlato. Di cui poi parleremo, di però. Di cui poi parleremo. Dunque, no, Expo è veramente pazzesco. Intanto è finito, cioè non andate a cercare ciò che non è finito, perché è finito. A parte dettagli tutto attorno, si può vedere un sacco di cose. Mi hanno detto, sai cosa mi hanno detto? Cosa mi ha detto Giovanna Mancini, nostra collega? Sì. Ma che mancano ancora le panchine. No, vabbè, ok. Non, forse tutto. Voglio dire, le panchine, no, però, non è un dettaglio importantissimo. Sì, beh, mancano dei dettagli. È un'esposizione, ecco, universale sul cibo. Ecco. E Padiglione Zero è stupendo. Complimenti, ecco, a Davide Rampello. Continui a scrivermi Padiglione Zero. No, Padiglione Zero, che tra l'altro è all'ingresso. Voi arrivate, entrate, fate la coda, andate a Padiglione Zero, che è bellissimo perché ha un tono giusto, tranquillo. Ci può andare. Io ho portato mio figlio Rocco con i bambini. Tutto tranquillo, si vedono dei film, molti di questi film, tra l'altro molto RadioTube come cosa, verranno poi messi sui siti di Expo, perché praticamente ogni paese ha dato vita a un filmato dove si racconta una storia. Io ho visto quello di Mario Martone, bellissimo, all'ingresso. Insomma, è una cosa, anche lì purtroppo per vedere tante cose bisogna starci tanto tempo. Quindi bisogna vedere. Ci andremo presto. È un'esperienza. Secondo me, molte appunto delle leggende metropolitane che valevano fino a qualche giorno prima sono state veramente sfatate. Adesso, al di là di tutto, è una cosa che va vista, perché comunque non è che capita tanto spesso. E la gente traspare comunque una sorta L'Expo di entusiasmo. Questo cos'è? È successo, è Expo? Partito un Expo. Ma è sempre visti? No, no, forse no. Stava annoiando. È un segnale di Pietro per dire che stava annoiando. In effetti bisogna vederlo per viverlo. Raccontato è diverso. Allora, ieri, cerimonia. Poi. Sì, cerimonia, Matteo Renzi. Ha detto delle frasi, secondo me, già a effetto. Sì, ne ha detta qualcuno una, l'aveva già più o meno detta. Sì, ne ha detta una, mi è piaciuta molto. Domani inizia oggi. La sentiamo? Sentiamo. Dai, sentiamola. Oggi inizia l'Expo. Mi piace pensare che oggi inizia il domani. Inizia il domani di un paese che ha un passato straordinariamente bello da far venire i brividi, ma che ha voglia di futuro e che sa che l'unico modo per costruire questo futuro è abbracciare il mondo, è non avere paura di ciò che ci circonda. Oggi è come se l'Italia abbracciasse il mondo e nei prossimi 6 mesi è come se il mondo potesse assaggiare l'Italia. Beh, come sempre Renzi, queste sue espressioni già pronte per i tweet. Infatti io lo stavo guardando dalla TV. No, lui è bravissimo, soltanto che questo domani qui è già iniziato un sacco di volte. Cioè questa espressione dell'oggi che oggi inizia il domani. Insomma, prima il domani è solo l'inizio. Vabbè, comunque bravo, perché comunque è stato emozionale in quella vero, cerimonia. Vero, verissimo, verissimo. Poi è stato anche bravo perché secondo me è stato anche intelligente. Tutti si aspettavano, tutti i giornalisti, vediamo chi ringrazia e chi non ringrazia. Posso anticipare una cosa della scaletta in diretta? Non si sa, mi guardi male. Vabbè, dai, torno disciplinato. Senti, devo leggerti il messaggio di Amedeo, che dice che le panchine non ci sono per il benessere dei visitatori, perché dopo aver mangiato bisogna passeggiare e non sedersi. Sì, e tra l'altro è lungo corso, come corso a Buenos Aires, da tutto il decumano. In realtà ci sono delle poltrone, ci sono delle cose, ci si può sedere in altro modo. Beh, ecco, vabbè, allora, comunque arriveranno comunque anche le panchine. Hai detto ringraziamenti. Siamo stati troppo buoni, adesso voglio essere un po' cattiva. Con chi? No, non voglio. Allora, lui ha ringraziato certe persone e non ha ringraziato altre. Sì. E io cercavo. No, però lui ha detto: ne ringrazio solo due per dire tutti. Certo, però io cercavo tra la folla le facce di quelli che non ringraziava, per vedere se erano arrabbiati. Ecco, pure tu, Prodi, D'Alema. Mi sembrava un po' arrabbiatino. Sì, non erano proprio. Sai che Renzi parlava tutto il tempo col presidente Napolitano, ma proprio fitto. Sì, sembrava sì. Due ragazzini, soprattutto Napolitano. Però. Io l'ho visto ieri sera alla Scala, è sempre in gamba, anche la Clio è sempre mamma in gamba. Mamma mia, va che veloce, bravi. Via. Ma sgambetta. È andato a firmare la carta di Milano al Padiglione Italia. No, al Padiglione, sì. E sai poi chi ha ringraziato? Ha sorpresa, Renzi. Sì. È questo che volevo dire. Stai cambiando. Stai cambiando. No. Ci siamo ringraziato. L'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, perché obiettivamente molti se lo sono dimenticati, ma è stato un suo grande successo. Peraltro, anche un po' di Romano Prodi. Cioè, bisogna dire che comunque Prodi. Non l'ha citato. Allora, noi però lo possiamo citare. Beh, sì. Quindi... Sai che la Moratti, però, non lo sapeva che sarebbe stata ringraziata. Non lo sapeva? Io gliel'ho chiesto ieri sera alla Scala. Mi ha chiesto la mia inviata di Radio 24 preferita. Certo, sai, io Chiedo scusa a tutte le altre, ma lo devo dire per contratto. Beh, sì, ovviamente. Alla Scala ho detto: scusi, signora Moratti. Sindaca, ex sindacessa. E lei mi ha detto: sì, ma Matteo Renzi l'ha ringraziata. Lei se l'aspettava? E sa lei cosa ha risposto? Sentiamolo. Sì, devo dire che mi sono veramente commossa, non me l'aspettavo, mi ha commosso il ringraziamento del Presidente Renzi, mi ha molto commosso anche l'applauso che c'è stato, ho come sentito un abbraccio da parte della città, mi ha commosso e sono felice di aver fatto il mio dovere nel portare un risultato per la mia città, per il mio paese, spero che sia un grande successo. Se l'aspettava e mi è sembrato sincera quando ha detto mi sono commossa. Lei si è alzata però nell'arena, c'è stato un bellissimo applauso e secondo me è anche furba l'idea di Renzi di ringraziare, perché è giusto. No, forse non ha ringraziato Prodi perché ultimamente Prodi ha detto un po' di cose contro Renzi, insomma quelle cose lì tra... Dici che sono delle ravave? Vabbè. Però poi lui ha detto che ringraziava tutti i presidenti del consiglio precedenti, presidenti regioni, cioè lì ha voluto fare una cosa ad personam per Letizia Moratti. È in par condicio anche Renzi, no? Perché sai che no, noi qua stiamo dicendo un sacco di cose. Vabbè, però è stato un evento pubblico, sono tutti purtroppo. Come l'anno scorso, le maglie da par condicio sempre. Facciamo gli auguri a Marco Pannella così violiamo. Ma gli auguri di compleanno violano par condicio, non credo. 85 anni, ma come si fa a non farglieli? Ma certo, ma dai, buon compleanno a Marco Pannella, secondo me gli auguri di compleanno non violano la par condicio. Guarda, facciamo così, li faccio anche a mia mamma che sempre oggi 65 e via. Auguri, così mamma, è 65. Una roba di famiglia, ma no, non è politica. Ma si dice l'età. Ah, ma è della mamma. Ma no, auguri per i 42 anni alla signora Bellasio. Allora, 85 di Marco. Vai Marco. Allora, non violiamo la par condicio, parliamo di un personaggio che ha messo d'accordo tutti, che mette d'accordo tutti. Tu magari hai un po' di conflitto di interesse no, col padiglione. Non ne parlo proprio. No, dai. Dismetti i panni per qualche minuto, perché io voglio parlare di Papa Francesco. Sì, che è intervenuto alla cerimonia. Sì, mi è sembrato, io lo posso dire perché non ho nessun tipo di coinvolgimento, lo dico proprio da spettatrice della cerimonia di ieri, che tutto avesse un senso fino a un certo punto, e poi quando è arrivato Papa Francesco, lui sia riuscito a dare a Expo il suo vero senso, perché ha spiegato esattamente sì lo spirito che deve avere l'esposizione universale. Se allora, si occupa di nutrire il pianeta, perché le persone nutrire che il pianeta abitano. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto Bocelli che cantava, era successo di ridare, panchine però che mancano. In quei momenti, in quegli istanti lì, in quei minuti, Expo secondo Something's me ha avuto, sì, ha avuto il suo momento più significativo. Io lo dico appunto senza nessun coinvolgimento, Papa Francesco. L'Expo è un'occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Cerchiamo di non sprecarla, ma di valorizzarla pienamente. In particolare ci riunisce il tema nutrire il pianeta, energia per la vita. Anche di questo dobbiamo ringraziare il Signore per la scelta di un tema così importante, così essenziale, purché non resti solo un tema, purché sia sempre accompagnato dalla coscienza dei volti, i volti di milioni di persone che oggi hanno fame, che oggi non mangeranno in modo degno. Ecco, secondo me questo è stato il momento di maggior senso di tutto. Insieme alla commozione ne ho parlato. L'idea che per capire le cose bisogna immaginarsi un volto è straordinaria. E tra l'altro è straordinaria dal punto di vista della comunicazione, anche, è un insegnamento anche per noi giornalisti. Sì, mi ha proprio aperto una finestrella nella mente. È stato uno dei due momenti più emozionanti. Mi sono anche molto commossa. L'ho detto all'inizio del Sabato del Villaggio. Ecco il coro dei bimbi. L'ho detto all'inizio. Con l'inno cambiato, sì, sei favorevole. Tu non l'hai sentito, no, perché, no, perché so, stavi arrivando. Però abbiamo avuto Laura Marcora. Lo che so, è la, lo so, lo so. Ma non possiamo, gliel'avrai chiesto, ma non possiamo cambiarlo per sempre. Ah, no, allora ce l'ha spiegato. Ce l'ha spiegato per bene. Chiesto, ha detto infatti che in realtà durante l'alzabandiera è stato fatto così com'era, perché in quel momento ufficiale non si può cambiare nulla. Penso ci sia anche una legge di Non si può cambiare nulla. Però poi, ed era informato sia il Presidente del Consiglio che il Presidente della Repubblica, hanno fatto questa piccola variazione che io ho amato moltissimo. Ma sì. Allora, io che sono, come sapete, un cuore di pietra, piango se cantano gli alpini, se cantano i bambini. Sì, se canto degli alpini. Io, tu piangi, guarda, ti assicuro. Di dolore. Anche, ma non per commozione. Di dolore. Assolutamente. Di dolore. Allora, facciamo una cosa. Visto che hai detto una cosa molto importante, che quell'immagine fa bene anche ai giornalisti, sì, tra poco voglio parlare di giornalisti. Anzi, sai che parleremo molto di giornalisti la prossima. Adesso che ci è penso parleremo di, molto di giornalisti. Leggo? Leggo? No. No, non anticipiamo. No, sorprese. Però sorprese, un giornalista, sorprese, per esempio, che ha deciso che basta, ha altro basta da fare. L'unico in Italia. Due hanno deciso. L'unico in Italia. No, dai. Allora, l'unico in Italia. Non anticipiamo troppo, dai. Sono dai, 17:28, 20 secondi. Dai, sì, sì, io sto cominciando a perdere i colpi, ma non importa. Andremo pausa, fino in pausa. Fondo, dai, sì, una pausa. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia, su con Sustemium Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Radio Tube. Rieccoci insieme con sì, Radio Tube, che poi l'ultima mezz'ora del Sabato del Villaggio, che peccato. L'ultima mezz'ora, quella prima del tuo aperitivo. Quella, sì, no, poi io sto ascoltando con molta attenzione la viabilità. Infatti il prossimo blocco stare attento, perché stasera vado a cena. Dove? No, con la bandina? Sì, c'è un po' di... Vai a cena con il radioascoltatore, sì, quello che continua. Dai, basta. Smettila tu. No, io Daniele, dico basta. Daniele, sì. Daniele, ecco. Dimmi. È incontrollabile, non è vero, cioè pericolosissimo. Ma non è vero, anzi parliamo, secondo dai, parliamo me, di giornalisti. Secondo me tu sei seri, un dai, giornalista un po' indisciplinato. Perché? Secondo me anche per te ci vorrebbero alcune regole. Lo dice anche il mio direttore. Ecco, ci vorrebbero alcune regole. Ecco. Sai che c'è un collega molto sì, bravo, che ha scritto un pezzo per Wired.it che io ho trovato condiviso in tutte le salse negli ultimi giorni sui social network. Il titolo è 10 regole per i giornalisti che usano i social network. Adesso molti ascoltatori diranno: vabbè, io non faccio il giornalista. Prima quindi... regola, spegnetelo. No. Io non faccio il giornalista, chi cosa mi frega, importa? Invece, no, secondo me sono delle regole di ottimo buon senso anche per i non giornalisti. Alcune sì, magari sono più adatte alla professione, però secondo me molte sono regole di buon senso. Io mi chiedo, intanto le regole sulla rete funzionano, poi se metti 10 regole per tutti, e devo dirti che queste sono particolarmente azzeccate. Perché? Tutto è nato da quello che è successo qualche settimana fa. Lo stesso autore di questo pezzo, che tra poco introduco, tutto è nato qua con la sospensione di Paola Saluzzi, decisa da Sky a causa di un tweet contro il pilota di Formula 1 Fernando Alonso. Lei stava da tifosa, sì, guardando una corsa, e si è lasciata andare con un tweet da tifosa, no? Ah, si è ricordato di quanto sia arrogante, invidioso. Ma era un tweet assolutamente da tifosa, non da giornalista. Apriti cielo, lei è stata sospesa. Poi tutto è andato bene, ma senti cosa è successo quel giorno, quel pomeriggio, perché lei doveva, poi tra l'altro è un'amica, Paola, doveva andare in onda. Il collega, molto bravo, molto carino, Semprini, ha detto così: quello dei talk, delle persone più corrette ed educate che io possa conoscere. E piccola premessa, me la dovete permettere, grande abbraccio a Paola Saluzzi, è una delle persone più corrette ed educate che io possa conoscere e che conoscete anche voi, e tra breve tornerà con voi. Saluto gli ospiti. eccola qua, insomma, Gianluca Semprini è stato bravo a dire: sono io a sostituirla, lei tornerà presto, lei è brava e corretta. Bello, mi piace questa correttezza tra colleghi. Certo è che questo fatto ha destato molto il dibattito, perché effettivamente lei aveva fatto un tweet personale da tifosa, non da... Ma cosa bisogna fare? No, però fare? Sky ha il contratto per la Formula 1, quindi, no, per bisogna quindi, spiegare quindi, alcune quindi, cose. Quindi ci vogliono delle regole di comportamento. Vediamo. Allora, ne parliamo con l'autore di questo 10 regole per i giornalisti che usano i social network. Si chiama Rudy Francesco Calvo, Rudy FC, sì, su Twitter. Buonasera Rudy. Buon pomeriggio a voi. Eccolo Ciao. Qua. Te l'aspettavi il successo di questo pezzo? Perché è stato poi lettissimo, condivisissimo, dai giornalisti soprattutto. Non solo. No, sinceramente no, non me l'aspettavo e confermo che non è stato letto solo da giornalisti, perché ho ricevuto anch'io molti riscontri, tweet che dicevano sì, vabbè, regole per giornalisti, ma non solo, perché dovrebbero seguirle tutti. E non me l'aspettavo perché sinceramente io non voglio atteggiarmi a teorico della professione, mi sembravano delle semplici regole di buon senso e, come dire, molto, molto empiriche, così, che nascono dalla mia semplice esperienza di giornalista twittatore. Quindi no, non me l'aspettavo, e però sono stato ovviamente contento. Il principio di base, che vengo a quello che dicevate voi, secondo me non esiste una distinzione tra l'aspetto professionale e quello personale. Quando andiamo sui social siamo noi stessi con la nostra professione e quindi anche con il brand della testata che ci portiamo dietro, quindi dobbiamo stare ben attenti a quello che scriviamo, secondo me. Ecco, prima di chiederti qualcosa di preciso su queste regole, vorrei tornare a quello che è successo qualche giorno fa, perché lo sappiamo tutti, il Corriere della Sera ha cambiato direttore, Ferruccio De Bortoli ha salutato la redazione e ha proprio detto con un video molto condiviso con sui video, social. Quindi? E ha detto proprio questa cosa nel suo saluto alla redazione. Eccolo qua, Ferruccio De Bortoli. Ognuno di noi è in debito verso l'istituzione che ci accoglie e di cui portiamo le insegne, e questo lo dico perché dovreste ricordarvelo quando siete a volte allegramente sui social network. Eccolo, bisogna ricordarsi sempre, a volte allegramente sui social network, bisogna comunque ricordarsi della testata a cui, dell'istituzione, parla del Corriere della Sera, ma insomma potremmo dirlo anche del Sole 24 Ore, di tante altre testate, ma anche di altre aziende, perché non vale solo per i giornalisti. Alla fine tu sei tu, ma cioè se un dipendente della Bollicine Inc. scrive un tweet pesante che viene condiviso e che viene letto, e certo, comunque questo potrebbe avere ripercussioni anche sulla Bollicine Inc. Sì, anche se è anche vero che da questo punto di vista chi lavora nel mondo dei media, diciamo, deve stare ancora più attento, perché comunque ha un proprio profilo pubblico, non è come un semplice dipendente di un'altra azienda, quindi come dire, c'è bisogno di un'accortezza in più. Io sono d'accordo con quello che ha detto De Bortoli, così come ero d'accordo, se ricordate, un po' di tempo fa, quando De Bortoli indirizzò alla propria redazione una lettera in cui chiedeva un impegno in più per quanto riguarda lo sviluppo online della testata, e allora ci furono resistenze da parte della redazione. Ecco, i giornalisti tendono ancora a vedere o quantomeno la generazione precedente alla nostra di giornalisti tende ancora a vedere con molto scetticismo la rete, ad approcciarsi con molta difficoltà. Manteniamoci in ambito Corriere: il nuovo direttore giovedì pomeriggio, quando è stato nominato, aveva 1500 follower su Twitter, e diciamo che questo ovviamente non ha niente a che vedere, certo, con la sua professionalità, che è indiscussa, però invece ha a che vedere con appunto con il rapporto con la rete che i giornalisti hanno. A proposito del rapporto con la rete, a proposito anche dei follower, perché se una persona fa un altro mestiere probabilmente potrebbe avere meno follower di un giornalista noto di qualsiasi testata. tanta visibilità porta anche agli insulti, alle... Tu anche su questo hai scritto delle cose molto precise, cioè sì alle critiche, no agli insulti, e fin qui ci siamo, ma la cosa divertente è che tu hai scritto anche occhio ai complimenti. Beh sì, certo, perché comunque sta nella professionalità di un giornalista anche quello di evitare di mostrarsi, come dire, troppo accondiscendente nei confronti di, dipende qua anche dal tipo di professione. Io ad esempio, che sono un giornalista politico, non mi metto a scrivere né Renzi sciocco, diciamo così, e neppure, che ne so, viva Renzi, re del mondo, mi sembrerebbe poco professionale fare una cosa del genere. Questo vale ovviamente in tutti i campi. Un'altra cosa che scrivo per quanto riguarda ad esempio le interazioni, secondo me quello è un aspetto fondamentale, diciamo nello sviluppo 2.0 del giornalista. Interagire con i lettori e con chi ci scrive sui social è importante, però attenzione ai troll, quindi anche chi ci insulta, vale anche il contrario, anche chi viene sulla rete, sui nostri profili solo per insultarci, non merita l'attenzione che noi possiamo dare agli altri lettori, quindi bene l'interazione, ma evitiamo di cadere poi querelle fine a se stesse. Insomma, torniamo a te, a Falco, perché vale anche per, vale anche per gli attori, perché esatto. Insomma, se lei avesse ceduto alle provocazioni, invece l'ha rivoltata in maniera un po' diversa. Daniele, che ne pensi? Ma io non so, non è che sono tanto d'accordo con quello che ci siamo detti finora. Cioè, nel senso, noi trattiamo i social network come qualcosa di diverso dalla realtà. E invece io rappresento l'azienda per la quale lavoro anche quando vado al bar, mi devo comportare bene nella vita, non mi devo comportare bene sui social perché siccome sono un giornalista quindi svolgo una cosa, una professione diversa. Bisogna stare attenti, Rudy, temo un attimo questo aspetto, bisogna stare attenti a non pensare che il giornalista sui social network si deve comportare in modo diverso perché in fondo, tra virgolette, è superiore del lettore o del normale utilizzatore dei social network. Noi dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo anche comprendere che le persone sono ben capaci di dividere quando noi dividere il tono che noi usiamo quando facciamo i giornalisti e invece quando siamo Daniele Bellasio, Marta Cagnola, no? E anche perché... Daniele, io sono... No, no, vai Rudy. No, io sono d'accordo con te. Quello che dico io va ad esempio in contrapposizione ad esempio a quello che aveva scritto invece il vice direttore della stampa Gramellini, quando diceva e vabbè, ma la Saluzzi non l'ha mica detto in TV, l'ha detto su Twitter questo, come se invece Twitter non fosse come dire appunto un'appendice della realtà e quindi anche della professionalità, così come dicevi tu. È vero, al bar, ma anche su Twitter, no? Certo, cioè, appunto, ma infatti è giustissimo quello che tu dicevi all'inizio in parlando con Marta sulla questione del buonsenso. Purtroppo il buonsenso vale per le leggi degli stati che riguardano un sacco di argomenti, sarebbe la legge migliore da usare in molti campi. Certo. Ed è difficile codificarlo il buonsenso e quindi dobbiamo aspettarci che il buonsenso sia in qualche modo cultura all'interno della rete. Infatti io dico sempre, se tutti andassero immediatamente su tutti i social network ci sarebbero tutti gli antidoti anche contro i troll e per capire meglio chi è un bravo giornalista o chi no. Sei d'accordo? Esatto, sì, sono d'accordo anch'io, assolutamente. Io ribadisco, come scrivo nella mia biografia su Twitter, io faccio la ballerina, quindi... sì, però qualcos'altro. Com'è ballerina? La ballerina alla radio. Alla sì, radio. Sì, la ballerina alla radio. Per quindi la radio l'hai nominata, attenzione, no, allegramente sì, l'hai nominata. L'ho nominata allegramente. Rudy, è un argomento interessante sul quale si può dibattere dici all'infinito. La regola più violata, secondo te. Dici, tutti, invitiamo gli ascoltatori ad andare a leggere l'articolo per sapere le 10 regole. Invece ci dici, secondo te, qual è quella più violata? Guarda, te ne dico una che ho violato fino a ieri o l'altro ieri, non ricordo anch'io, quella di utilizzare linguaggi diversi per social diversi. Io fino a pochi giorni fa... Ah, io lo faccio ancora! Esatto, per una pigrizia enorme che mi contraddistingue, collegavo il profilo Twitter a quello di Facebook, per cui i miei tweet andavano automaticamente su Facebook. Ah no, questo no. Ok, non lo faccio. Non si fa, perché i linguaggi sono diversi, i pubblici sono diversi e quindi... Facebook è più diversa. Il privato e Twitter, esatto, è un po' più il pubblico, il dibattito... Esatto. Instagram è una via di mezzo, un po' più, esatto, sull'arte, ok. grande. Cerco retenzione perché io un paio di giorni fa ho separato i due profili e quindi non violo più questa regola. La nuova vita di Rudy. E io invece violo la prima, indicare la testata di riferimento nella bio e la propria professione. Appunto, io metto che faccio la ballerina, forse. Io ho indicato. No, tu sei più bravo. Tu sei più bravo. Simpatica, non è, ecco, diciamo, non è grave. Dai. Rudy, grazie per essere stato con grazie noi. Per chi ti volesse seguire su Twitter, @ RudyFC, come l'iniziale di Rudy Francesco Calvo. Poi grazie si occupa per anche essere tanto stato di politica, eh? No, sì, che poi in questo periodo, con la par condicio, mamma mia, che fatica. Grazie, Rudy, a presto. Grazie a voi, ciao. Ma sì, dai, mandiamo il traffico e parliamo, dai, poi festeggiamo. Abbiamo una festa da fare tra poco. Grandissimo. A tra poco. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Radio Tube. Ci siamo, l'ultimo blocco. Eravamo d'accordo fin dall'inizio della lavorazione di questa puntata in diretta di Radio Tube. Abbiamo detto a chi vogliamo invitare, abbiamo detto al 3 il suo nome, entrambi l'abbiamo detto. Perché? Anche perché. Perché, cioè, lui, ragazzi, è il mezzobusto. Sì, che meraviglia. Di Telemonte K, ma io me lo ricordo. Ma che uomo. Il mezzobusto. Ma che uomo, ragazzi. Ma che uomo. Allora, facciamo una cosa. Sì. L'altro giorno, momento emozionante. Lo ascoltiamo subito, sì, cosa è successo subito. L'altro giorno. Anche perché è diversissimo da come ha sempre condotto il telegiornale. Beh, sentiamo cosa è successo l'altro giorno sulla 7. Bene, allora ci siamo, questo è l'ultimo telegiornale che ho condotto dopo 30 anni passati in questa azienda. Qua lo studio è pieno di gente, sono anche un pochino emozionato. Io voglio ringraziarvi al di fuori di ogni retorica, perché so che molti di voi mi seguono da 30 anni e mi hanno, come dire, cazziato quando c'era bisogno di cazziarmi, ma mi hanno anche supportato nei momenti, diciamo, più bui. Quindi veramente vi voglio ringraziare tutti. E poi permettetemi anche di ringraziare, come dire, pubblicamente il direttore Enrico Mentana, che veramente venerdì scorso mi ha commosso, sorpreso, passando quel servizio giornalistico che mi è stato dedicato e stringendomi poi la mano al termine di questo servizio e ringraziandomi così in diretta. Al contrario di quanto scritto da alcuni piccoli giornali in questi giorni, io invece ho apprezzato moltissimo quest'atto, che considero un atto di gentilezza da parte del direttore nei miei confronti, ma si sa, l'interpretazione della realtà spesso riflette, essendo soggettiva, il proprio modo di essere, e se si è volgari si interpreta la realtà evidentemente in modo volgare. Grazie a tutti, io ho altre cose da fare da questo momento in poi, buona vita, arrivederci. Beh, ma che che emozioni, l'ho voluto ascoltare tutto. Buonasera Armando Sommaiuolo. Allora, Armando. Ciao Marta e ciao Daniele. Che ciao. Meraviglia. Ma allora, è circa 1:10. Come hai fatto a leggere tutto questo 1:10 senza avere i lacrimoni? Perché ha condotto 30 anni in modo professionalmente perfetto sempre. Figurati se non riesci a leggere quello. Però dai, questo momento guarda, non è facile. Guarda, il lacrimone c'è stato dopo, anzi i lacrimoni, anche perché poi in studio era venuto e si trovava in regia Tiberio Timperi, che è un amico che comunque ha iniziato con me a Telemonte Carlo, quando si chiama Telemonte Carlo, e il quale si è messo a piangere. No. Poi c'erano tutti i colleghi che erano di turno quella domenica e sono arrivati lì, e quindi insomma è stato un momento così di commozione, ma credo che sia normale. Però no, se sei in onda non ti devi commuovere. Mi è capitato qualche volta in questi anni, vabbè, è un fatto umano, però insomma bisogna cercare di essere non freddi, ma insomma è abbastanza, non so, professionali, non so se la parola sia giusta, comunque diciamo così. Armando, tu usi soprattutto Facebook, se ho capito tu non usi Twitter, ti abbiamo cercato, ma tu usi soprattutto Facebook. Sì, Twitter non mi piace. Però su Twitter si è scatenato, cioè, tipo Antonio Polito ha scritto siamo tutti sommaiuolo, cioè il delirio, tutti a scrivere, Giorgio Cappozzo ora è sempre sommaiuolo, cioè, poi vabbè, parte Aldo Grasso che ti ha fatto un elogio, sottolineando la tua eleganza, la tua competenza. Te l'immaginavi questo modo di affetto? Ma Ma guarda, no, devo dire la verità, sinceramente no, però sai, tu hai citato dei nomi di persone, giornalisti anche importanti che insomma vanno spesso in televisione, cioè, però spesso, e non mi riferisco ai nomi che hai fatto, questi colleghi arrivano sempre un po' tardi, arriva sempre prima quello che viene chiamato il popolo della rete. Mi ricordo quando c'era Sandro Curzi, diceva il popolo dei fax, no? Che scrivevano il popolo della rete, cioè in realtà questo affetto io lo sentivo prima, e si trattava anche di migliaia di persone, e diciamo che questi colleghi giornalisti, critici televisivi o altro hanno registrato una cosa che evidentemente prima gli era sfuggita. Comunque sì, mi ha meravigliato non poco, devo dire la verità. Senti Armando, tu hai detto una cosa bellissima, io ho trovato, ho altre cose da fare, che è diciamo una filosofia di vita, un augurio che ti faccio e che dovremmo farci tutti noi a noi stessi, però volevo farti una domanda un po' più triste. C'è qualcosa che non ti piace più di questa professione per cui... Daniele, sì, certamente. Allora, dunque, intanto chiariamo. Io avrei potuto continuare a lavorare ancora a lungo. E beh, sei giovane, diciamo, anche all'interno, sì. Anche all'interno della Sette, diciamo, che ho approfittato di una... Avendo iniziato a lavorare molto giovane, avendo, insomma, ne ho approfittato di una finestra per andare via. Ma avrei continuato se fossi stato del tutto soddisfatto. E, sai che cos'è? L'informazione in qualche modo è cambiata. Gli editori non sono più gli editori di una volta, e i direttori spesso si trasformano in manager e devono fare i conti con ciò che gli editori gli chiedono, con i conti e tutto il resto. La politica è entrata un po' troppo, secondo me, nel gioco. E, quindi insomma, è cresciuta anche... invece che diminuire la politica, l'influenza? Sì, ma non è tanto una la pressione sui media, diciamo così. In realtà sono gli stessi media che rincorrono esatto. I politici. A me non piace dover iniziare un telegiornale, ma lo dico, non è una critica a Enrico, no, no, certo, sia chiaro, però dicendo Renzi, perché poi se nella scaletta c'è un nome, Renzi, poi minoranza, e si sa che è la minoranza PD, e poi subito dopo centrodestra, cioè certe volte... Il mondo è pieno di notizie, e noi continuiamo a seguire questi quattro fregnoni che stanno mandando all'aria d'Italia. C'entra molto poi... con ho altre cose da fare. Nel mondo ci sono altre cose. Dai, però io ti lancio una provocazione, perché i giornalisti poi alla fine non riescono mai ad andare in pensione. Se adesso ti facessero una proposta, Armando, ti dicessero allora. Però dai, conduci un talk, oppure ti dicessero, visto che hai fatto anche tanto l'inviato, perché non vai a fare una missione sul campo? Tu cosa faresti? Beh, sai, la cosiddetta missione sul campo mi fa venire i brividi, ma mi piace molto. Io ho vinto due volte il premio Ilaria Alpi, permettimi questa pubblicità che mi faccio da solo. Ecco, quando tu fai questo tipo di lavoro non scrivono una riga, poi scrivi, fai una gaffa tipo la figa sulla fuga, non so se la sapete, quella del vicepresidente allora, siriano. Allora, aspetta, ti fermo, esplode. Ti fermo Armando, ti Occhio fermo perché la ce l'abbiamo. È preparatissima. Ce l'abbiamo, eh. Aspetta, stai lì perché vorrei fare un piccolo ripasso. Sì, perché sei cattiva. No, ma che cattiva, ma senti che bravo. Allora veniamo alle notizie internazionali. In primo piano abbiamo la situazione in Siria, perché è ancora giallo, non è stato del tutto risolto sulla presunta figa, quella lasciamola da una parte, capito? Numero cattiva. numero uno, cioè vabbè, ne devi uscire in qualche modo. Allora tu stai facendo una cosa seria, diciamo così, ma se capita sì. Sei una persona normale, allora piuttosto che sbarrare la strada e balbettare fai una battuta da cazzare il dono. No, sei stato fantastico, poi sempre questo aplomb straordinario, poi veramente. Sei stato eletto un sacco di volte, magari dà fastidio ricordarlo, però ricordiamolo, il mezzo busto più affascinante della televisione. Sì. Beh, io non lo posso dire, sennò Daniele mi sgrida, però sì. Nel Giurassico. No, non è vero. Sapete come nacque quella cosa? Nacque perché uscirono sui giornali una cosa fastidiosa, in effetti lo posso capire, su Lilli Gruber, che peraltro sta alla Sette, quindi la saluto. Comunque Lilli Gruber fecero un sondaggio e uscì fuori su un giornale la più telescopabile fra le televisioni. E lei giustamente si arrabbiò moltissimo. Certo. Dice, basta allora con anche gli storia. Uomini. fatelo anche per gli uomini. Allora, un giornalista, di cui non mi ricordo il nome, della DN Kronos, che aveva avuto un contratto a tempo determinato alla DN Kronos, si inventò, dice, ma perché effettivamente non lo facciamo anche per gli uomini? E fece una sua inchiesta fra le feder casalinghe, l'Unione Donne Italiane e una serie di persone incontrare per la strada, e uscì fuori, bontà sua, anzi bontà loro, il mio nome. E questo lui riuscì, ebbe una tale eco allora con interviste che alla fine poi lui lo assunse anche, quindi vedi che ha portato bene. Armando, grazie per essere stato con noi. Divertiti a fare le altre cose, però noi ti aspettiamo anche in video, dai, noi speriamo, dai. Grazie Armando Sommaiuolo per essere stato con noi. Grazie Armando. Daniele, è finito il nostro Radio Come Tube. Passa il tempo? Come passa Prendi il tempo? Che devi partire, vai sì, a cena. Devo partire, devo andare a cena, ma speriamo che non ci sia tanto traffico. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Devo ringraziare Cristian Goldoni che ci ha dato una mano a fare questa trasmissione, Pietro Lacorte in regia. Adesso è il momento del GR. Alla prossima settimana. Ciao.